autogestito da femministe e lesbiche, una maratona di 24 ore. Ancora un altro contributo sull'8 marzo, questa volta ci arriva dalle compagne dei Castelli Romani, noi lo leggiamo veramente volentieri, sono delle domande. 8 marzo, mimose offerte dai vigili urbani, manifesti delle giunte comunali, ragazze che non vanno a scuola e vanno in giro così, cene di donne sole con esibizione di zucchine e patate nei piatti, risate sconce imbarazzanti, riepiloghi ad hoc sulle conquiste sulle donne, il divorzio ad esempio, la 194, la minigonna. In un angolo i dati sugli stupri. Il femminismo è un ismo come gli altri. Cortei che l'8 marzo non si fanno più, se si fanno c'è un po' di tristezza. Si rileva che tutte le donne sanno di se stesse qualcosa di più. Si rileva che non sono forti abbastanza. Ma forti perché? Fisicamente forti? Politicamente forti? Come? Con seggi istituzionali? Con riconoscimenti pubblici? Con l'estenuante presenza mediatica? Con apparizioni continue in ogni spazio possibile? Con un'attenzione persistente e pelosa ad ogni cosa venga detta o fatta da una donna? Una specifica o una a caso? La forza femminile di che natura è? Chi deve dare valore a questa forza? L'8 marzo serve a questa forza? E il 9 marzo? Stiamo ripercorrendo antiche strade in salita in mezzo alla folla? E a casa come fa? E le relazioni? E il lavoro? L'8 marzo è giorno di riposo o di rodimento? Perché in tempi migliori avevamo quasi cancellato l'8 marzo, ridendo delle mimose, ed oggi sgomitiamo di nuovo per imporlo, come una specie di Natale autogestito? C'è qualcosa che non va? Che cosa? Vogliamo forse provare a utilizzare una data conosciuta per cooperare scusate, mi avvicino il foglio, per cooptare qualche intelligenza senza offrire cioccolatini o confetti? Inseriamo la memoria della lotta delle donne nel nostro nuovo 8 marzo? Lo si capisce chiaramente che alla memoria e alla lotta, per esistere, devono essere praticate tutti i giorni dell'anno? Alla cosiddette nuove generazioni, poverette, sempre loro, quelle nuove, non chiediamo troppo, ferme nella nostra pochezza, nella nostra debolezza, approssimativamente, presunzione, pedanteria? Siamo un buon esempio? Lo siamo stato? Abbiamo un po' paura del nostro stato attuale che per poterlo analizzare davvero a fondo? Allora, via con l'8 marzo, che va sempre bene! Sento un po' di amaro nelle mie parole, ma è solo constatazione di un percorso a serpente che si arrotola su se stesso, compreso il mio. La novità della sessualità è forse l'unica cosa che determina un 8 marzo amoroso invece che di sola lotta. La differenza ormai collaudata della sessualità è tale che l'8 marzo ha diritto almeno a uno spot pubblicitario. Ed ecco che la rovina ritorna. Morirono bruciate le operaie della Cottons per diventare santino delle donne sessualmente liberate? Ebbene, grazie davvero, ma con cautela per favore, senza eccessivi entusiasmi destinati a spegnersi domani. La profondità della riflessione è ancora un obiettivo minimo. L'intreccio un po' scomposto delle nostre riflessioni produce autonomia duratura e destinata ad essere tramandata? Forse sì, forse no. Forse no, ma invece forse sì. Martedì autogestito da femministe e lesbiche. Oh, make me over. I'm all I wanna. E allora questo era un contributo fra l'ironico e l'amaro di una compagna dei Castelli che salutiamo con affetto e ringraziamo. Alcune di queste domande mi sono piaciute molto, chissà che non sia possibile così riprenderle nella giornata e rilanciarvele nell'etere. Ciao a tutte, grazie.